أغني لك في قلبي أنا وأهلك حبيبي أدعي أهلك حبيبي وادعي وأقول يا ربي انصرها على الدوام. صنها عزة للعروبة جبها إبلة للسلام، ليها في العالم مكانة أعلى وأكبر بالكلام. صنها عزة للعروبة جبها إبلة للسلام، ليها في العالم مكانة أعلى وأكبر بالكلام. ونلاقيها بكل شدة قايمة بالواجب أوام، زي ما الأخت الكبيرة ترعى إخواتها تمام. ونلاقيها بكل شدة قايمة بالواجب أوام، زي ما الأخت الكبيرة ترعى إخواتها تمام. يا إلهي خليها لنا نور بيهدينا لأملنا، مطرح بيدعي القرايب والحبايب للوئات. هي حبيبتنا هي عروبتنا هي أرواحنا هي احنا واحنا هي مصر هي. عاشت بلادنا عاشت حرة لوجدنا، ولك ولك ولادنا لحد آخر الزمان. قامت بلادنا وانت أمجد نرجوكنا، ومحققة بتقول مجد أعظم من اللي كان. أمة واحدة، شعب واحد، كلمة واحدة، قلب واحد، كلمة واحدة. Sono le 20:15 da Radio Cairo, ora in onda il notiziario. Con i titoli delle principali notizie. Il segretario generale della Lega Araba esprime fiducioso alla capacità dell'esercito egiziano a guidare il paese nella prossima fase. Il canale di Suez è aperto al movimento delle navi. Reazioni riguardo alle dimissioni del presidente Mubarak. Mandato d'arresto per l'ex presidente del Pakistan. Passiamo ora alle notizie in dettaglio. L'Unione della Radio e della TV egiziana ha salutato il popolo e l'esercito per il successo della rivoluzione. Secondo il suo comunicato, l'Unione augura la rivoluzione del popolo diretta dai giovani egiziani e presenta il saluto alle forze armate per la sua protezione a questa rivolta e alla sua preservazione della patria e dei cittadini. L'Unione si è ugualmente impegnata a essere onesta nel suo messaggio. Ora gli obiettivi del nuovo Egitto devono essere le riforme e la democrazia, una nuova costituzione e libere elezioni. Amr Musa, segretario generale della Lega Araba, fa il punto con la CNN sulla giornata storica dell'Egitto. Intanto il Giappone auspica un concreto percorso verso un governo democratico e la situazione è seguita sui giornali cinesi. Il China Daily mette in guardia gli egiziani dall'instabilità e dalle interferenze straniere. Dopo le dimissioni del presidente Hosni Mubarak e i festeggiamenti durati tutta la notte in Egitto, migliaia di persone sono questa mattina in piazza Tahrir al Cairo, diventata il simbolo delle proteste antiregime durate 18 giorni. I militari egiziani hanno iniziato a rimuovere le barricate dalle strade del Cairo, primo segno di un possibile ritorno alla normalità l'indomani delle dimissioni del presidente Hosni Mubarak dopo 18 giorni di proteste. Il canale di Suez è aperto al movimento delle navi, come d'abitudine ha assicurato un responsabile del canale, Ahmed El-Manekli. Egli ha aggiunto che la via d'acqua non è stata influenzata dagli ultimi avvenimenti sopravvenuti in Egitto. Il segretario generale del Partito Nazionale Democratico Hossein Badrawi ha presentato le sue dimissioni dalla sua candidatura al partito. Anche il presidente del Comitato della Difesa e della Sicurezza Nazionale all'Assemblea del Popolo e membro della Segreteria Generale del Partito Nazionale ha presentato le sue dimissioni. Le dimissioni del presidente egiziano Hosni Mubarak sono un passo positivo nella giusta direzione perché arrivano in risposta al volere del popolo egiziano. Lo afferma una nota dell'ufficio del primo ministro iracheno Nouri al-Maliki, esprimendo fiducia che il fraterno Egitto e il suo grande popolo possano ottenere una leadership in grado di soddisfare le loro ambizioni in materia di sicurezza e stabilità e di mantenere lo status dignitoso dell'Egitto nel mondo. Il regno del Bahrein ha dichiarato oggi che rispetta la scelta del popolo egiziano. In un comunicato diffuso dall'agenzia ufficiale BNE, Bahrein si è detto completamente fiducioso nella capacità del Consiglio Supremo delle Forze Armate a mantenere la stabilità e la sicurezza e a dirigere gli affari del paese, sottolineando che l'Egitto è un pilastro essenziale della sicurezza e della stabilità nella regione. Migliaia di agenti in tenuta antisommossa sono stati dispiegati nelle strade di Algeri in vista della manifestazione dell'opposizione prevista per oggi nella capitale. Lo riferisce l'emittente L'Arabey, ricordando che giovedì scorso il quotidiano locale Shuru aveva parlato di 25.000 uomini delle forze dell'ordine impiegati. Il presidente iracheno Jalal Talibani effettuerà oggi una visita ufficiale in Siria per dei colloqui con il suo omologo siriano Bashar al-Assad. Fonti irachene hanno dichiarato che i colloqui verteranno sul rafforzamento delle relazioni bilaterali arabe. Questa è la prima visita del presidente iracheno in Siria dalle ultime elezioni legislative tenute nello scorso marzo. Mandato di arresto per l'ex presidente del Pakistan Pervez Musharraf in relazione all'attentato del 2007 in cui morì il premier Benazir Bhutto. Un tribunale speciale antiterrorismo di Rawalpindi ha ordinato la cattura del generale in pensione che vive in esilio volontario in Gran Bretagna dall'aprile 2009 e recentemente aveva annunciato la fondazione di un nuovo partito pakistano e la volontà di candidarsi alle presidenziali del 2013. A darne notizia è stata GeoTV. Nei giorni scorsi la notizia dell'incriminazione di Musharraf filtrata nei giorni scorsi aveva colto di sorpresa lo stesso governo di Islamabad. Due esplosioni e spari di arma da fuoco sono stati uditi a Kandahar, in Afghanistan. Secondo quanto riferito da un funzionario locale che ha chiesto l'anonimato, l'obiettivo è la sede della polizia e scontri armati con gli agenti sono in corso in tre diverse zone della città. È stato arrestato nella sua casa di Yangon, nella ex Birmania, l'editore del settimanale in lingua inglese Myanmar Times. Ross Dunkley è accusato di avere il visto scaduto e di possesso di marijuana, secondo quanto riferito da una dipendente della rivista. Elizabeth Taylor è stata ricoverata a Los Angeles per un'insufficienza cardiaca congestizia. Ne ha dato notizia alla sua portavoce Sally Morrison, confermando le indiscrezioni circolate. La 78enne leggenda di Hollywood viene monitorata dai medici. Nell'insufficienza cardiaca congestizia, il cuore non riesce a pompare abbastanza sangue ricco di ossigeno al corpo. L'India commenta favorevolmente le dimissioni del presidente Hosni Mubarak, che ha lasciato il potere in ossequio ai desideri del popolo d'Egitto. Lo ha detto il ministro degli esteri Krishna, rilevando che è positivo l'impegno del Consiglio Supremo delle Forze Armate di assicurare una transizione pacifica in tempi brevi. A Mosca l'opposizione russa appella a manifestare come tutti i mesi nel centro del paese per una giornata di rabbia che raggruppa qualche centinaia di persone. Da Radio Cairo avete appena ascoltato il notiziario. We are the بالأحضان يا بلدنا يا حلوة بالأحضان. الحضانة مصانع يا مزارع بالأحضان يا حصاد الثورة يا حلمي وعيل بالأحضان يا مداين يا جناين بالأحضان يا اللي انت بترفع رايد السل بالأحضان يا مصانع يا مزارع بالأحضان يا حصاد الثورة يا حلمي وعيل بالأحضان يا مداين يا جناين بالأحضان اللي انت بترفع رايد السلم نور عيني وحبايبي وعزاز قوي على قلبي. Cairo, vi presentiamo il riepilogo delle principali notizie. Il segretario generale della Lega Araba esprime fiducioso nella capacità dell'esercito egiziano nel guidare il paese nella prossima fase. Il canale di Suez è aperto al movimento delle navi. Reazioni riguardo alle dimissioni del presidente Mubarak. Mandato d'arresto per l'ex presidente del Pakistan. والمقصاد لغريب الصلب لسواعد عربيه والنفوس حره ابيه سواعد عربيه والنفوس حره ابيه يحميكم والدوم الهمه ويحيى الشعب يحيى الشعب يحيى الشعب يا رب العزة والقدرة بناديك في صلاة العيد عيد الثورة وناجيك بصلاة العيد عيد الثورة وناجيك اللهم انصر بلدي وأيدها سدد خطوتها وخد ايدها يا رب اجعلنا نحقق كل خيال اجعل يومنا الواحد بكفاح اجيال فجر يا نبي الخير تحت قدامنا المستقبل خليه النور قدامنا عملنا آمين بارك في جهادنا ونضلنا آمين واحفظ رئيسنا احفظ رئيسنا وبطلنا يا رب يا رب

Si fa dell'Araba una donna priva di intelligenza e di potere, ed il suo velo non l'ha impedita mai a svolgere un ruolo efficace in tutti i campi della società. Oggi cari amici vi parleremo di Hoda Sarawi, pioniera del movimento delle donne egiziane ai primordi del XX secolo, che fu la prima donna a scendere in piazza contro il colonialismo britannico e fu profondamente coinvolta nell'attivismo politico per il suffragio universale. Come presidente dell'Unione delle Femministe Egiziane dichiarò che lo scopo dell'associazione era il restauro dei diritti perduti dalle donne egiziane, rivendicando la propria storia. Raccontando la storia di sua nonna, la scrittrice e traduttrice Sania Sarawi ha scritto: Hoda Sarawi era figlia del primo fautore del costituzionalismo egiziano, Muhammad Sultan Pasha, che fu anche il primo presidente del Senato sotto il Kedeve Tawfiq Pasha e conosciuto come re dell'Alto Egitto per il gigantesco latifondo che possedeva in quella regione. Hoda aveva perso suo padre all'età di 5 anni e trascorse l'infanzia in una casa di donne, un harem senza padrone, dove gli unici uomini erano suo fratellino Omar, e all'età di 13 anni venne obbligata a sposare il suo cugino e tutore, Ali Sarawi Pasha, per sottrarsi ad un pretendente candidato dal Kedive. Poco tempo dopo, le nozze, come era da aspettarsi, data la grande differenza di età tra i due coniugi, fece ritorno per qualche tempo nella grande casa di sua madre, dove rimase 7 anni a studiare con l'aiuto di suo fratello e di un'amica francese. Riuscì in questo modo ad acquisire una doppia educazione francese ed araba. Scrisse un numero di poesie nelle due lingue e studiò anche pianoforte. Consapevole della propria ampia formazione, affermò in diverse occasioni che la sua mente valeva quelle di 10 uomini messi insieme. Tornata dopo 7 anni presso il marito, mise al mondo due figli nel 1903 e nel 1906. Fu gradualmente coinvolta nella lotta contro l'occupazione britannica insieme a suo marito e a suo fratello, e siccome i soldati inglesi sparavano sugli uomini e sugli studenti durante le manifestazioni, Hoda organizzò nel 1919 una marcia di donne, pur sempre velate, per le strade del Cairo per protestare contro l'arresto e l'esilio dei 4 capi principali della resistenza egiziana. Il coraggio delle donne egiziane fu ammirato perfino dall'ambasciatore degli Stati Uniti d'America, che fece fotografie della manifestazione. Questa marcia divenne la pietra miliare di una lunga successione di gesti politici clamorosi. Cari ascoltatori, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto e siamo obbligati a lasciarvi ora. Vi invitiamo a proseguire il nostro discorso sulla pioniera del femminismo egiziano Hoda Sarawi la settimana prossima. Fino a risentirci, vi auguriamo tutto il bene. Da Radio Cairo avete ascoltato Donne nella storia araba, un programma curato e presentato da Sadeh Rafiq. Radio Cairo vi invita all'ascolto di Almanacco Turistico. Programma a cura di Hanè Khir. Amici di Radio Cairo, buonasera e benvenuti a questa puntata che è una di ciclo che vi presentiamo sui riflettori della rivolta in Egitto. Previsto un operativo regolare durante il mese di febbraio per Egypt Air. La compagnia effettua il collegamento giornaliero Malpensa-Cairo e Fiumicino-Cairo senza variazione rispetto alle schedule. Sospesi temporaneamente invece i collegamenti da Catania per il Cairo e Bin Luxor per via di una rimodulazione delle frequenze in Europa. Secondo quanto comunica l'ufficio italiano, sono assicurate le coincidenze per i voli domestici in Egitto e per destinazioni in Africa ed Estremo Oriente. D'altra parte, e per favorire il rientro dall'Egitto dei connazionali, la compagnia di bandiera italiana, in coordinamento con la direzione dell'aeroporto del Cairo, ha provveduto ad aumentare la capacità dei voli operando i collegamenti su Roma con Airbus A321 da 200 posti in luogo dei più piccoli A320. Lo rende noto la compagnia aerea di bandiera, che ricorda inoltre che presso l'aeroporto del Cairo il personale dell'Italia, insieme a rappresentanti dell'Ambasciata d'Italia in Egitto, fornisce assistenza ai propri clienti per effettuare le operazioni di imbarco, rallentate dalla congestione dovuta alla grande quantità di passeggeri che affollano l'aeroporto. Proseguono le cancellazioni delle partenze per l'Egitto. I tour operator hanno deciso di annullare tutte le partenze fino al 4 marzo 2011, compreso. Ai passeggeri prenotati, i tour operator propongono possibilità di posticipare la data di partenza del viaggio originariamente prenotato in Egitto, oppure la possibilità di cambiare la località o la destinazione. Merita di ricordare, cari amici, che il rapporto tra turismo e sviluppo economico è direttamente proporzionale. Infatti il turismo genera moneta e di conseguenza sviluppa l'economia locale. Come è noto, nel paese dell'Egitto, per esempio, è grazie alla costruzione di strutture ricettive e di negozi dove comprano i souvenir i turisti, ed è grazie a questo che il paese si sta sviluppando un po'. Il prodotto interno lordo di una nazione è dato anche dall'introito di moneta che il turismo porta, oltre ad usufruire di strutture ricettive. Da Radio Cairo avete ascoltato? Almanacco turistico. Il programma curato e presentato da Hane Akhir. فثراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي فثراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد فثراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي بلدي أحببتك يا بلدي بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد بلدي أحببتك يا بلدي.

Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. In Kairo war es soeben 21 Uhr. Dies entspricht 19 Uhr Weltzeit UTC. Radio Kairo mit dem deutschsprachigen Programm des Rundfunks der Arabischen Republik Ägypten. Sie hören uns